in primo piano. Buona giornata, buona domenica, benvenuti alla rassegna stampa, una buona domenica da Mauro Meazza. Sui giornali questa mattina, sui giornali che trovate in edicola, ancora la vicenda della Concordia, ancora le questioni del Medio Oriente, della striscia di Gaza in evidenza. Cominciamo proprio dalla stampa con Hamas che rompe la tregua, ancora missili su Israele, questo è il titolo principale, dura poco il cessate il fuoco e poi proteste pro-palestinesi a Parigi con 40 fermi, questo viene segnalato dal quotidiano di Torino, che poi riporta anche, ed è un altro dei temi di grande rilievo oggi sui quotidiani, la vicenda di Alitalia, ad esempio dal Messaggero il titolo principale: Alitalia sfida tra governo e sindacati. Intesa con Etihad, alto là di Palazzo Chigi ai confederali, niente caos, o martedì sarete convocati. Renzi in pressing su Poste, Caio tratta con arabi e banche. Resta l'ipotesi della società Cuscinetto, qui dicevamo già ieri, riferendo appunto da alcuni degli articoli, tra cui quello di Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore, c'è soprattutto il problema della posizione delle Poste, che non sono convinte del piano di salvataggio così come delineato, ma che chiedono per intervenire con la liquidità necessaria invece l'interposizione di una società appunto intermedia tra la vecchia Alitalia e i suoi debiti soprattutto e la nuova Alitalia, quella che dovrebbe essere poi affidata a Etihad e al loro 49%. Però vorrei fare una cosa un po' inconsueta, probabilmente per una rassegna stampa, vorrei cominciare segnalandovi non un titolo questa mattina, ma una vignetta. La vignetta è quella di Giannelli sul Corriere della Sera, l'abituale vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, perché descrive dei viaggiatori in attesa su un marciapiede di una stazione e l'annuncio all'altoparlante dice: si avverte che per sopraggiunte impreviste complicazioni tecniche il treno della ripresa viaggia con un anno di ritardo, ci scusiamo per il disagio. Perché comincio da questa vignetta? Perché qua e là sui giornali occhieggia la preoccupazione per i conti pubblici, preoccupazione che andrà a rendersi palpabile poi da settembre, quando si tratterà di entrare nel vivo della legge di stabilità. Sappiamo che da questa legge per il 2015 si sono attese misure anche importanti come l'estensione del bonus degli 80 euro. Ebbene, tutto questo diciamo è più possibile o è più palpabile se arriva un pochino di ripresa, se le cose si riprendono, ma appunto non è esattamente così. E allora parlando proprio di economia, partiamo e delle prospettive soprattutto che riguardano tutti noi di qui alla fine dell'anno. Partiamo dall'Avvenire, che oggi dedica il suo titolo più importante a una grande intervista al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Parla il Premier: Renzi, riforme avanti, sui conti non piove. Questa è la frase utilizzata da Renzi nella sua intervista riportata oggi su Avvenire. L'economia è senza sole, ma non serve una manovra correttiva. Sulle unioni civili presto ci sarà una iniziativa del governo. L'intervista poi occupa due pagine nel quotidiano della CEI, appunto. Dice Renzi: non voglio le elezioni, sulle riforme smineremo il campo. La data, come sapete, la deadline, come usa dire adesso, è l'8 di agosto, ma si può andare anche oltre, hanno detto sia Renzi sia il ministro Boschi. Quindi lui conferma ad Avvenire: agosto-settembre non è questione di vita o di morte. Sulle unioni civili si cambia, è pronta la proposta del governo. Allora, vediamo un po' le questioni che qua e là, nella lunga intervista realizzata da Arturo Celletti e Eugenio Fatigante, il Presidente del Consiglio va a toccare quest'oggi. Il nodo delle risorse, ad esempio, per il quoziente familiare, cioè la possibilità di avere un trattamento fiscale più favorevole per le famiglie tenendo conto delle imposte pagate sia dall'uno che dall'altro componente della famiglia, c'è un problema di risorse, conferma l'impegno per il quoziente ma lo vincola alla disponibilità di risorse, di certo non sarà fattibile nel 2014, vedremo se ci saranno i margini per il 2015. E poi un tema che sta prendendo ugualmente corpo, quello della riforma del lavoro. Come sapete, c'è un disegno di legge in discussione, il cosiddetto DDL Poletti, dal nome del ministro, appunto, del responsabile del lavoro che lo ha presentato, dove sono attese importanti novità per il meccanismo dell'occupazione, e speriamo per far ripartire l'occupazione in Italia. Il tema caldo, gli si chiede, resta quello delle norme per il lavoro. Il suo ministro e alleato Angelino Alfano insiste sulla necessità di intervenire nuovamente sul totem dell'articolo 18, quello appunto che regola il reintegro e i licenziamenti e reintegro per giuste cause. Condivide l'idea di passare i prossimi mesi a discutere se confermare o rivedere l'articolo 18 sarebbe l'ennesimo derby ideologico che non serve, così dice Renzi. Io sono per riscrivere totalmente le regole del lavoro, in questo senso va la legge delega del ministro Poletti. Penso che questo non sia il nodo risolutivo per creare lavoro, ma sia, assieme alla giustizia civile, alla scuola e a un rapporto diverso tra cittadini e pubblica amministrazione, lo strumento per ridare competitività al Paese. Veniamo alle questioni di manovra, questioni che potrebbero avere un impatto diretto e vicino anche temporalmente alle nostre tasche. Il rischio di una manovra per il 2015, gli si chiede in questa intervista, è quanto mai concreto. O no? Nego in modo assoluto, dice Renzi, che ci possa essere una manovra correttiva sul 2014. Per il 2015 vedremo a ottobre, ma per la prima volta avremo a che fare con un intervento che ridurrà le tasse, perché la legge di stabilità confermerà il bonus degli 80 euro e casomai lo amplierà. Vediamo se ce la facciamo. Su altri giornali, peraltro, si citano anche dei retroscena, cioè delle perplessità che sarebbero circolate tra Renzi e altri ministri per la possibile estensione di questi 80 euro anche, come si era detto, ai pensionati e ai lavoratori autonomi. Però questa possibilità sembra più sfumata anche per il non eccellente stato dei nostri conti pubblici. E qui questo casomai lo amplierà, riferito al bonus degli 80 euro che leggiamo su Avvenire, sembra confermare indirettamente queste indiscrezioni. Che percentuale do all'allargamento, dice, si chiede Renzi stesso, voglio prima aspettare i numeri. Comunque questo avverrà senza sforare il limite del 3% di deficit, come sappiamo parte della complessa trattativa sull'Europa in materia di flessibilità e rigore, trattativa che per ora non ha visto molte aperture da parte europea. E poi sulla questione delle riforme elettorali, sulla discussione che attualmente sta vedendo proprio un muro contro muro con le opposizioni che stanno ricorrendo anche all'ostruzionismo con la presentazione di migliaia di emendamenti, proprio a questo è dedicata parte dell'intervista, dice Renzi, il partito di quelli che non vuole cambiare mai, le sta provando tutte, hanno presentato 8.000 emendamenti che non sono 8.000 proposte per cambiare, sono spesso solo 8.000 tentativi di perdere tempo. E così la stragrande maggioranza di quegli 8.000 emendamenti suonano come un ignobile offesa alla dignità delle istituzioni. Matteo Renzi sospira, un emendamento diceva la Camera dei Deputati si chiami Gilda, è tutto così triste, è così incredibile. Questo in realtà però andrebbe precisato, è un po' la tecnica anche dell'ostruzionismo, cioè quella di presentare emendamenti, come dire, fantoccio, che servono sostanzialmente soltanto a rallentare il processo di decisione delle Camere. Ci tolga una curiosità, e questo è un altro aspetto importante. Lei dice che ci sarà un referendum, si intende appunto sulla composizione del Senato, sulle modifiche alla Costituzione. Ma il referendum c'è, gli chiedono Celletti e Fatigante su Avvenire, c'è se non si raggiunge quella maggioranza dei 2/3 nel voto delle Camere su cui oggi potete contare. Alla quarta votazione, dice Renzi, dichiarandolo prima, alcuni dei nostri faranno mancare il voto. Sarà una scelta di trasparenza e di rigore. Vogliamo dire a chi ci accusa di essere antidemocratici che l'ultima parola sarà dei cittadini. È una scelta di assoluta serietà. È la risposta più forte a chi ci accusa di essere autoritari, ma nemmeno prova a discutere di riforma istituzionale, a chi vuole solo bloccare tutto e tenere il paese ingessato. Queste alcune delle dichiarazioni, appunto, con questa precisazione rilevante, riuscendo a mantenere questa maggioranza di 2/3 che consentirebbe di evitare poi il referendum, dice il Presidente del Consiglio: no, faremo in modo che il voto consenta invece di riportare la riforma costituzionale al referendum. Sul bonus, vi dicevo, citato appunto da Renzi, prendo dal secolo XIX, allargare il bonus di 80 euro sarà dura, lo scrive Giovanni Palombo questa mattina sul secolo XIX, Renzi ai suoi, dovremo dire la verità, per quanto riguarda le riforme va bene anche a settembre, quindi potremmo dire, anche per tranquillizzare Alessandro Milan che tiene il conto delle settimane decisive, nemmeno la prossima, che mi pare sia la 65esima, quella che si apre domani, sarà la settimana decisiva per le riforme. Potremo andare ulteriormente avanti, chissà, forse anche aspettare il rientro dalle vacanze di Alessandro Milan, titolare di questa rubrica, come sapete, da lunedì a venerdì. Ma torniamo alla questione del bonus degli 80 euro. Ha spiegato il capo dell'esecutivo, ha spiegato Matteo Renzi ad alcuni esponenti del Partito Democratico, non voglio fare come si è fatto nei precedenti governi, non metterò la testa sotto la sabbia, è necessario dire agli italiani le cose come stanno. Il clima sta migliorando, ma occorre tenere sempre la guardia alta. E allora, questa guardia alta cosa comporta? Beh, comporta ad esempio che sia alquanto difficile, così scrive Palombo sul secolo XIX, estendere il bonus degli 80 euro anche a pensionati e incapienti, cioè coloro che non hanno abbastanza IRPEF, non hanno abbastanza imposta da poter utilizzare appunto questo bonus di 80 euro, sono redditi così bassi che non hanno abbastanza imposta appunto per avere il bonus. Lo stesso Premier è piuttosto scettico su tale eventualità, si tenterà di tutto per raggiungere l'obiettivo, ma i tempi potrebbero slittare. È probabile che la tabella di marcia possa non essere rispettata. Così appunto il clima non bellissimo è un po' diciamo in linea con il meteo di questi giorni, che sembra prepararsi per l'autunno dei conti italiani. Per quanto riguarda ancora il Premier, dal Corriere della Sera, l'ultimatum sulle riforme, basta l'ostruzionismo, poi si discute, e anche qui dal Corriere della Sera, dopo l'8 c'è il 9, il riferimento è, non è proprio così essenziale chiudere l'8 di agosto, ma si potrà chiudere anche oltre, si potrà andare anche oltre, e questo appunto nel riferimento del titolo del Corriere della Sera che trovate oggi in prima pagina. In primo piano. Bentornati e ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Grazie naturalmente all'uomo che questa mattina rende possibile tutto questo, cioè Carmelo Lauricella dalla regia. È lui che dovete l'opportunità di ascoltare la rassegna e la segnalazione di alcuni dei titoli più importanti oggi sui quotidiani italiani. Parlo un momento ancora di politica, perché ieri su Il Giornale c'era questa lettera, apparsa questa lettera di Berlusconi, una sorta di appello al centrodestra, ai moderati, e c'è stata nella giornata poi la risposta di Alfano, che era poi il principale destinatario di questa missiva riportata dal Giornale. Così commenta Il Giornale la reazione di Alfano: NCD, il nuovo centrodestra, spreca la prima chance per riunire il centrodestra, Berlusconi deluso da Alfano. Leggiamo sul Giornale: Silvio Berlusconi è deluso da Alfano, ma poi fa spallucce, noi andiamo avanti lo stesso, la strada è quella, con o senza Angelino. Il giorno dopo la lettera pubblicata dal Giornale, in cui il Cavaliere ha lanciato un appello all'unità dei moderati, vedere la risposta così timida, per usare un eufemismo, dell'ex Delfino non gli fa certo piacere. Alessandro Sallusti scrive un editoriale intitolato «Una lettera da rileggere». L'occasione offerta dalla lettera di Berlusconi, così leggiamo dal Giornale, è preziosa, probabilmente irripetibile, Persa questa, non credo proprio che capiterà una nuova occasione, e a quel punto ognuno andrà avanti sul suo piccolo sentiero, lasciando a Renzi e a Grillo il monopolio delle autostrade elettorali su cui scorrazzare, non senza fare danni. Rileggiamola quella lettera. Così è l'invito di Sallusti, perché insomma, che ha detto Alfano, così lo riassume lo stesso giornale. Angelino Alfano allontana il dialogo col Cavaliere, ma il nuovo centrodestra si divide, Alfano all'Assemblea pensa soltanto alle poltrone, all'Italicum, al governo per 1000 giorni. Quagliarello, che però ha detto no alla sinistra, e poi scintille tra De Girolamo e Lorenzin. L'avvertimento di Alfano: chi ci chiede di uscire dal governo, di mollare la stagione delle riforme, non capisce che il nostro problema è Renzi, che fa troppe cose di centrodestra. Quindi insomma, Alfano ha insistito sulla necessità di restare nella coalizione governativa per appunto fornire un riferimento proprio a quei moderati ai quali si rivolgeva la lettera di Berlusconi. Nella pagina accanto La reazione di Berlusconi, definita, raccontata come retroscena da Francesco Kramer. Berlusconi appunto sarebbe deluso da Alfano, ragiona da piccolo leader, questo è il giudizio, non è virgolettato, insomma è una specie di riassunto estremo del pensiero di Silvio Berlusconi in materia. Il presidente azzurro, irritato dai veti del nuovo centrodestra sulle preferenze, sulle soglie di sbarramento, andiamo avanti anche senza di loro, e aspetta al varco l'ex Delfino, gli italiani sapranno giudicare. Tutto questo su Il Giornale, appunto le vicende politiche, in particolare le vicende del centrodestra, dell'area moderata, ieri scompaginate da questa iniziativa di Silvio Berlusconi. Il Sole 24 Ore, per raccontare di due provvedimenti particolarmente importanti che stanno in questo momento affrontando il cammino alle Camere per la definitiva conversione in legge: decreto sulla pubblica amministrazione, dirigenti della pubblica amministrazione in pensione d'ufficio a 62 anni, c'è stato il primo via libera a questo decreto, è arrivato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, però come scrive il Sole 24 Ore, come scriviamo sul Sole 24 Ore, c'è una spiacevole sorpresa per i dirigenti pubblici, perché per effetto di un emendamento potranno essere pensionati con 4 anni di anticipo rispetto ai requisiti previsti dalla riforma Fornero. E poi, per quanto riguarda invece la mobilità, altro punto particolarmente importante, la mobilità del personale della pubblica amministrazione, bene, servirà la trattativa con il sindacato. Eugenio Bruno e Tucci scrivono sul Sole 24 Ore appunto di questo decreto, che poi viene raccontato nei suoi dettagli e come sta cambiando proprio in pagina 3, anche con l'ausilio di una serie di schede. Tra l'altro è in vista anche una riforma dell'abilitazione nazionale per le cattedre universitarie, c'è il ritorno dei diritti di rogito per i segretari comunali, ma solo per i piccoli enti, e c'è appunto questa possibilità, o meglio questo provvedimento ad andare subito in pensione per 4.000 insegnanti, erano stati bloccati dall'arrivo della riforma Fornero, però dovranno rinviare l'incasso della liquidazione di quello che si chiamerebbe in ambito privato il TFR. Di un terzo decreto poi racconta il Sole 24 Ore questa mattina, perché si prepara un pacchetto di provvedimenti, si chiamerà Sblocca Italia, è atteso al Consiglio dei Ministri giovedì 31 luglio, però le misure potrebbero non andare tutte in un solo decreto legge, ma essere poi diluite, spalmate su più provvedimenti. Giorgio Santilli dà una serie di anticipazioni: sono attese da questo complesso di interventi definito Sblocca Italia un pacchetto di semplificazioni per soprattutto quanto riguarda le procedure di autorizzazione in materia in ambito pubblico e privato, poi una riprogrammazione della legge obiettivo e una serie di interventi per porti e aeroporti, legge di riforma sia dei porti sia del piano aeroporti, sono interventi tra l'altro di cui si parla da parecchio tempo, da anni, e dovrebbero finalmente trovare spazio in questo intervento atteso, ve lo ripeto, giovedì prossimo, 31 luglio. E poi oggi, essendo 2 anni dalla frase famosa, insomma, quantomeno per chi segue le cose economiche, del governatore della BCE Draghi, faremo tutto quello che è necessario per difendere l'euro, 2 anni fa lo disse, le tensioni sulla moneta unica e in particolare poi sul nostro paese sono effettivamente calate, il suo whatever it takes, questa era stata la frase pronunciata appunto, oggi trova sul Sole 24 Ore una ricostruzione di una pagina dove peraltro si ricorda appunto che l'Europa è in questo momento ai minimi storici e si fa una sorta di resoconto di quelli dei paesi che sono riusciti, l'Italia appunto, ma anche la Spagna e la Grecia, a giovarsi della frase, dell'impegno di Mario Draghi proprio per difendere l'euro. Questo oggi, questa mattina sul Sole 24 Ore. Naturalmente, come ogni domenica, trovate anche l'inserto culturale del Sole 24 Ore, la domenica del Sole 24 Ore in edicola. Vorrei passare invece a questioni, come dire, solo apparentemente più leggere e parlarvi di Optipoba. Optipoba, che probabilmente rischia di diventare tristemente famoso, è una persona che non esiste, ma è dovuto appunto alla improvvida, per usare un eufemismo, frase di Tavecchio, candidato alla presidenza della Federcalcio. Questo candidato, appunto Tavecchio, ha detto ieri, d'altra parte in Italia ci sono giocatori che prima mangiavano banane e adesso giocano titolari nella Lazio. Ora, voleva forse essere una battuta, voleva magari essere qualcosa di simpatico, il giocatore, come dire, mangiatore di banane, gli ha dato anche un nome e cognome, appunto Optipoba prima mangiava banane, adesso è titolare nella Lazio. In Inghilterra invece si guarda al pedigree. Un po' tutti i giornali naturalmente prendono le distanze, soprattutto prende le distanze lo stesso Matteo Renzi nell'intervista ad Avvenire di cui vi riferivo prima. Ci sono anche proprio delle iniziative politiche contro questa improvvida sortita di Tavecchio, ad esempio su Repubblica, frasi razziste, bufera su Tavecchio, il calcio tace, il Partito Democratico insorge, se ne vada. E poi, come ricorderanno probabilmente gli appassionati di calcio, proprio le banane erano state oggetto quasi di una vicenda a suo modo simpatica, che era quella in cui venne tirata una banana a un calciatore, questo come insulto razzista, ma il calciatore appunto prese questa banana e se la mangiò tranquillamente. Da lì si scatenò, era poco prima dei mondiali, una sorta di viralità, per cui c'erano calciatori ma anche politici, anche allenatori, che si facevano ritrarre in questi selfie, in questi video che poi giravano in rete, appunto nell'atto di mangiare banane, prendendo in questo modo appunto le distanze dal comportamento razzista di certi calciatori. Ora, naturalmente, fa specie che il candidato alla presidenza della Federcalcio usi proprio questi termini per stigmatizzare magari il fatto che alcuni calciatori che arrivano alla nostra Serie A potrebbero non essere di grande livello. Tutto questo per calcio, come dire, e razzismo, ma oggi soprattutto ci attendiamo un momento sportivo molto importante. Nibali, Parigi è tua, così scrive la Gazzetta Sportiva. Vincenzo, quarto ieri nella cronometro, guadagna ancora sui rivali, oggi può festeggiare il trionfo nel Tour de France. Naturalmente siamo tutti vicini a Nibali e aspettiamo la sua vittoria, che potrebbe appunto ripetere le imprese di Pantani, di Coppi, di Bartali, che sono rimaste poi quasi nella storia dello sport a questo punto. Questo per quanto riguarda la parte sportiva. Nibali, vi dicevo, è naturalmente citato anche da molti altri giornali, non solo da quelli sportivi. Un'ultima annotazione per un articolo su Alitalia, la vicenda Alitalia, settimana decisiva, questa sì rischia di esserlo, quella che si apre domani. Oggi su Repubblica Ettore Livini dice: se naufraga l'intesa con gli emiri, Libri in tribunale, maxi esuberi e alla fine la svendita è sicura. Speriamo che non sia così. Ancora una buona domenica a tutti da Mauro Meazza.